Maria. Cazzo di Giove, ma non me l'ha tenuto. Ci dà inteso, qualche uno che glielo riferisce e si arrabbia. Ma Giuseppe? Giuseppe, allora. Cazzo di Giove, lui. Non lo metto mai in mezzo io. No, non l'ho sentito io. Non l'ho sentito, c'è proprio lui, ma poi sto parlando con Mauro. Ce l'ha sentito quello là, capisci a me, glielo riferisce e soccate giù, si arrangia. Qua non l'ho inteso, infatti tu quando mi ha chiamato a me, sono al telefono, cazzo sono così da riparo. E vabbè. Dimmi la mano, un grande momento, disvilo. Che ti va qua, diverso, vedi, pulito pulito. Non ce n'è quel rame qua. Vedi Mauro? Questo è una canoa. Senta niente. Non intende nulla. Ed è tutto a posto. Dillo, tu sei Santiago o no per qua, cla? Lo so, ma ti va che stai usando. È a metà potenza ciò. E la radio, vabbè, super. Bella pulita, come sempre. Faccio vedere un po' tu, Mauro. Ce ne va la pena questa frequenza. No, raga, ci mette in moto Mauro, non ti preoccupare, i piani valeva bene, almeno quando c'è casino, ce ne andiamo molto. Tu per 16, canale 2, vedi di zecca, è un canale 2, noi siamo invece un canale 2 in occhi, un gatto va bene, questo è canale 2, per noi, per me, per Luca è canale 2. Figlia. No, io devo sto qua, perché l'uno è 0,5. E io. Aspetta, sta andando via Mauro, dai, torno subito. Vai, vai. Corri, gioca, mi ruga! Infatti, Luca fa un buglione, il gatto, un fischio baracchini, mamma mia, gara, gatto. Tu, è un attimo, è un'altra bella di itri, mamma